Fanny Flagg. Presentare un gioiellino come pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop è un'impresa difficile. È uno di quei libri che fa ridere e piangere e che ti si mette nel cuore da non potercelo più levare. L'ho riletto tante volte che ormai alle pagine consumate e ancora registrandolo per il canale La Scuola delle Donne rido e mi commuovo come se non lo conoscessi quasi a memoria. Il procione che lava i cracker si stupisce tutte le volte di vederli affondare nella bacinella. La gallina Sister, gli strepitosi piatti del caffè di Iggy e Ruth, compagni di vite e di dolori, cucinati dalla nera Sipsy che conosce le migliori ricette dell'Alabama. Le surreali conversazioni tra la novantenne Nini Threadgood, che ricorda gli anni del caffè e della Grande Depressione, e la sua improbabile compagna di merende, la 48enne Evelyn Couch, che negli 80 si sente fallita come donna, moglie e madre, la quale si rende conto che essere stata virtuosa non le ha portato nessun premio e che la sua vita assomiglia a una morte. È sullo sfondo delle esilaranti scenette che si svolgono nel casalingo caffè di Whistle Stop un oceano di tenerezza, quando Iggy sfama senza fiatare tutti i vagabondi resi poveri dalla Grande Depressione e i neri alla porta sul retro, infischiandosene delle minacce del Ku Klux Klan, o quando va a riprendersi la sua amata Ruth che il marito picchia senza pietà. L'americana Fanny Flagg, autrice di questo capolavoro di humor e fatti storici degli Stati Uniti meridionali, nasce in Alabama nel 1944 e al momento di questa registrazione è ancora in vita. Non si sa molto di lei, se non che è una scrittrice e sceneggiatrice televisiva di successo. Le fonti la citano come dichiaratamente omosessuale, ma spesso si definisce così la solidarietà tra donne. Per un certo periodo fu la compagna di Rita Mae Brown, scrittrice, attivista politica e femminista anch'essa. Ha scritto diversi libri sull'onda del successo internazionale di Pomodori Verdi Fritti, che è del 1987, ma nessuno ebbe mai più lo stesso successo. Pomodori Verdi Fritti vive uno stato di grazia dovuto alla storia, allo stile, all'atmosfera e alla profondità degli argomenti descritti, sebbene con leggerezza, in punta di penna. Il film tratto dal libro, uscito all'inizio degli anni 90 col titolo di Pomodori Verdi Fritti alla fermata del treno, ha avuto anch'esso enorme successo, ma è stato depurato della storia d'amore tra le due donne, per motivi commerciali, e non rende neanche lontanamente l'idea di ciò che contiene il libro, non soltanto descrivendo gli anni della Grande Depressione e la segregazione razziale, ma anche gli anni 80 e l'inizio della presa di coscienza dei propri diritti da parte delle donne moderne. Mentre era lì sdraiata coi piedi nelle staffe, è la descrizione della povera Evelyn Couch dal ginecologo. Si chiedeva se esistesse qualcosa di peggio di uno sconosciuto che ti fruga dentro cercando chissà che cosa, come se tu fossi il banco di una pesca miracolosa. Ma ancora una volta, cercare di presentarlo o recensirlo questo libro è impossibile. Bisogna solo leggerlo o ascoltarne la lettura che vi offriamo. E chiedersi, con il gruppo di studio biblico composto da tutte le donne di Whistle Stop, perché Noè lasciò salire i due serpenti sull'arca, quando sarebbe stata l'occasione buona per sbarazzarsene una volta per tutte? Questo libro è un dono per il quale proverete gratitudine per il resto della vostra vita. Questa lettura si riferisce alla edizione Burr I Bellissimi 2016, tradotta da Olivia Crosio. Da Devana, un buonissimo ascolto.